Salve a tutti gli ascoltatori. Ciao Cristina. Allora, ciao. Senti, allora siamo rimasti, ci siamo lasciati a mercoledì scorso con questa grande, questa piazza, insomma la piazza, piazza gremita di gente, un po' di tutte, avevamo detto, di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali e componenti. E si aveva insomma un po' il terrore che questa piazza potesse venire sgomberata, invece la piazza insomma non è stata sgomberata, anzi sembra essere molto attiva, contende e via dicendo. Raccontaci un po' tu da mercoledì scorso che cosa succede al Cairo. Quello che succede, diciamo che la settimana è stata caratterizzata soprattutto negli ultimi giorni da un cambio di tendenza, diciamo, del movimento, e quindi a un certo punto il movimento, i vari gruppi appartenenti al movimento di Rizzi hanno deciso di uscire da Piazza Tahrir. Questo è stato fatto in vari modi, o meglio, cercare di non rimanere incastrati dentro la piazza, che progressivamente poteva andare a svuotarsi, perché poi questa ovviamente è una settimana lavorativa, e quindi di cercare di coinvolgere quante più persone a livello territoriale e cittadino possibile. Quindi la settimana è stata caratterizzata da una serie di cortei che hanno attraversato la città, sempre per raggiungere Piazza Tahrir, ma partendo da luoghi diversi, molto lontani tra loro e diversi come tipo di, diciamo, popolazione che li abita, insomma, come tipo di cittadinanza. Quindi da Shibra, che è un quartiere molto popolare, da Giza, che è molto popolare, da Mandisin, che è un quartiere più un pochino benestante. E questo è avvenuto ogni tot giorni, c'erano questi grandi cortei che contemporaneamente partivano da piazze diverse per raggiungere Piazza Tahrir. Questa è una cosa che è successa. Contemporaneamente le altre due cose importanti dell'ultima settimana sono il sit-in, l'occupazione che è ricominciata dopo un po' di tempo di interruzione davanti a Maspiro. Maspiro è la sede della radio e della televisione statale, protagonista come luogo del massacro del 9 ottobre del 2011, quando sono stati massacrati 27 persone in una sola notte, proprio perché manifestavano davanti alla sede statale. È passato già come il massacro, la battaglia di Maspiro, o il massacro dei copti, perché per la maggioranza erano copti. E quindi diciamo che è iniziato questo sit-in davanti a Maspiro, che è molto attivo, che c'è un sacco di gente che partecipa. Purtroppo ci sono stati dei scontri con quelli che qua chiamano Baltagheia, che sono, diciamo, dei delinquenti al soldo del potere, in qualche modo, che spesso vengono assoldati e pagati per attaccare la piazza, e spesso ovviamente comprendono nelle loro schiere dei poliziotti borghese e elementi dell'esercito. Questo è successo qualche tempo fa, qualche giorno fa, è finita con degli scontri a sassi e bottiglie che non hanno riportato particolari feriti. E l'altro evento importante invece è stato quello di ieri, dove c'è stata una prima riunione parlamentare, e vari cortei alla chiusura. La giornata, diciamo, era stata abbastanza tranquilla, la gente ha partecipato molto all'occupazione della piazza, e a un certo punto, quando si sono chiusi gli uffici verso le 4, da vari quartieri del Cairo sono partiti, come dicevo prima, vari cortei che però non avevano obiettivo di raggiungere Tahrir, ma passando per Tahrir avevano l'obiettivo di raggiungere il Parlamento. E questo è successo. E io ho partecipato a un corteo che partiva da una zona di downtown per arrivare proprio sotto il Parlamento, e trovarmi davanti una schiera di persone a mo' di milizia appartenenti a Fratelli Musulmani, che cercavano di fare da interposizione tra i protestanti e i soldati e il Parlamento. Momenti ovviamente di grande tensione, ci sono stati dei scontri con dei feriti, perché comunque i protestanti, i ribelli lamentano gli accordi che i fratelli musulmani stanno già cercando di fare con l'autorità delle forze armate e viceversa, e quindi rivendicano la domanda principale della piazza, che è quella con un cambio radicale con il sistema del vecchio regime. E quindi ci sono stati questi scontri che a un certo punto sono finiti alla peggio l'hanno avuta questo gruppo numeroso, anche il numero di musulmani che se ne sono andati. Ci sono state varie altre scaramucce all'interno di questo sit-in, che però è stato lì davanti per ore, e c'erano migliaia di persone, un'energia incredibile e una strategia vincente, in qualche modo, questa di uscire dalla piazza, di farsi vedere dalla gente, che comunque la gente normale in qualche modo comincia anche a diventare ad essere stanca di qualcosa che molti qui purtroppo ancora non capiscono esattamente cosa sia, e quindi vogliono stabilità economica, stabilità sociale, eccetera eccetera eccetera. E quello di non chiudersi nella piazza ma uscire nelle strade, diciamo, veramente è stata la strategia che ha caratterizzato quest'ultima settimana di lotte. Quindi, diciamo, insomma, comunque è un movimento che continua a riflettere, a trovare soluzioni per continuare la lotta. Mi sembra che non sia stantia per niente, né tantomeno non ci si renda conto di quelle che sono anche le cose da modificare per poter andare avanti. Esattamente, la rivoluzione non è finita, e questo ce l'hanno chiaro ormai in molti, e anche chi vorrebbe tenta un processo di normalizzazione deve fare i conti con la volontà dei protestati, che sono comunque un grandissimo numero. E quindi è quello che dicevi te anche prima, no? Che magari ci si sarebbe aspettato un intervento violento delle forze del mondo per sgomberare la piazza. Questo ancora non è avvenuto, perché la gente è in strada in numero, cioè c'è molta gente in strada, e la politica qua di regime, anche a livello mediatico, è quella di tacciare i protestanti di oggi di essere dei delinquenti che non vogliono il bene dell'Egitto, che continuano a creare problemi e tutto quanto. E questa politica è ovviamente difficile da portare avanti in momenti dove ci sono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone che protestano davanti al Parlamento o che stazionano a Piazza Carino, ovviamente, no? Immagino pure che ci sia. E quindi diciamo che la zona è praticamente assediata, c'è uno spiegamento delle forze dell'ordine e di checkpoint di controlli dell'esercito in modo capillare all'interno di tutta la zona centrale del Cairo, che comprende il Parlamento, la Camera, Piazza Tahrir e alcune delle ambasciate, tra l'altro. Però la gente continua, la gente non vuole fermarsi fino a che, insomma, l'autorità italiana non viene dismessa completamente, e non si comincia, questa è una domanda forte, di processi per gli assassini per chi ha ucciso la gente in piazza, sia polizia, esercito, insomma. Poi, per non calcolare, insomma, ancora quanti prigionieri ci sono nelle carceri egiziane. Senti, poi oggi per esempio sulla stampa c'era un articolo fantastico, se puoi avertelo su online ti prego vattene a leggere, in cui raccontava che ormai gli israeliani e gli italiani non possono più andare in vacanza a Sharm el Sheikh, perché purtroppo non è più quel luogo sicuro che era un tempo. Però tra questa usando questa scusa di articolo, comunque basandosi su questo, parlava molto dei beduini che nel Sinai soprattutto stanno ribellandosi tanto e addirittura facendo scontri continui con l'esercito, e quindi immagino una situazione che un po' si sta allargando, ma sin dall'inizio, già dall'anno scorso, però comunque continua ad essere allargata un po' a tutto l'Egitto, visto che un esercito non può comunque contenere una popolazione intera e domare una popolazione intera. Assolutamente giusto, non ho nulla da aggiungere. Ci sono state proteste ad Alessandria, a Suez, a Port Said, a Mansura, a Swan, È ovvio che una percentuale altissima della popolazione egiziana vive al Cairo, e quindi Tahrir in qualche modo diventa un pochino il luogo simbolo della protesta e della rivoluzione, ma c'è mobilitazione in tutto l'Egitto in questo momento. Va bene, senti, noi ti ringraziamo e poi insomma ci risentiamo casomai nei prossimi giorni proprio per continuare a capire come proseguirà questa ormai questa lotta. A questo punto anche i Fratelli Musulmani come continueranno a schierarsi e se ci sarà un reale cambiamento all'interno del appunto del governo, e soprattutto penso anche che molto sia dato dalla situazione di quello che succederà in Siria, perché anche la Siria insomma se ne parla molto a livello internazionale, soprattutto tra Israele e Stati Uniti, per cui insomma andremo a capire un po' nello scenario tutto lì vicino cosa succederà nelle prossime settimane. E noi mandiamo altre voci che tu hai registrato da quella piazza. Non so se ci vuoi dire altre due parole, se no ci ascoltiamo le voci di Piazza Tahrir. Direi che vi lascio volentieri alle voci dei protagonisti di questa rivoluzione. Noi ti ringraziamo e ci sentiamo i prossimi giorni. Grazie. Grazie per lo spazio, ciao. Ciao. Quindi questa corrispondenza che facevamo appunto con l'Egitto, adesso andiamo a sentire queste appunto le voci di Piazza Tahrir che Marco ha registrato, e ne abbiamo già mandate alcune la scorsa settimana, ve ne proponiamo oggi altre due, e al termine delle quali andremo ad ascoltare insomma il GR di Onda Rossa, non prima di darvi comunicazione di un'iniziativa che ci sarà sabato prossimo, e si parlerà di Palestina sempre qui a Roma, quindi ancora 87.9. Piazza Tahrir è il simbolo dell'Egitto, la piazza della libertà. Quando sento il profumo della terra di Tahrir, impazzisco, mi inebria. Vorrei vivere il resto dei miei giorni qui, perché questa piazza è nel cuore di tutti noi. È divenuta il simbolo del rincontrarsi, il simbolo della rivoluzione e della fratellanza. In piazza ho visto giovani laureate che pulivano le strade e portavano via l'immondizia. Una scena strana, ma molto bella. Potrei smettere di andare al cinema o di guardare la TV, ma non di andare a Tahrir. بسم الأمة رئيس الجمهورية مادة واحد تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية Il ricordo più intenso della mia vita è quando è stato nazionalizzato il canale di Suez. Una gioia immensa si è diffusa in tutto l'Egitto, perché nessuno pensava che Suez sarebbe stato di nuovo nostro. E io ero lì, quando le truppe inglesi hanno lasciato il paese. Ed ero anche a Port Said, durante la guerra del 56. Le bombe ci cadevano addosso come pioggia. Il momento più bello è stato quando ho visto gli inglesi imbarcarsi e andarsene via. Mia madre mi ha dato il nome di Re Farouk perché sono nato il giorno in cui lui si è sposato. Sono un patriota e un ribelle. Sono un rivoluzionario perché non sopporto le ingiustizie. Vado in piazza a cantare. Abbasso il regime militare. Questo è quello che cantiamo. Noi non siamo un esercito e non vogliamo essere guidati da militari. Sono un civile e voglio essere governato da altri civili. Sono testimone di tutto ciò che è successo. All'inizio c'era molta confusione a causa di alcuni infiltrati che cercavano di boicottare la rinascita dell'Egitto. Volevano rendere vana la nostra rivoluzione. Sono loro quelli che hanno creato confusione tra rivoluzionari e delinquenti. Erano in mezzo a noi e non lo sapevamo. Non lasceremo questa piazza fino a che i responsabili della morte dei nostri martiri non verranno processati. Devono essere processati. perché quei ragazzi erano i figli dell'Egitto. Erano in piazza solo per manifestare e nessuno di loro era armato. Sono a Tahrir dal 25 gennaio 2011, fermo al mio posto. Ci ho anche dormito in piazza. La rivoluzione è nata su Facebook e gli appelli si sono diffusi così rapidamente che abbiamo iniziato a radunarci fino ad arrivare a milioni di persone. Ero seduto in piazza quando è arrivata una donna. Mi ha salutato e io le ho risposto. Poi mi ha detto: sei in piazza con questo cartello, sotto il sole. Come fai per mangiare, per bere? Le ho spiegato che ho molta pazienza e che Dio è con me. E lei: prendi questi panini. E me ne ha dati due. Questa è la rivoluzione e questi sono i veri ribelli di Tahrir. Il problema è che abbiamo dormito per 30 anni, ma la gente non ha di che vivere. C'è chi dorme sottoterra, nei cimiteri o sui tetti degli edifici, mentre tu, Hosni Mubarak, pensavi solo a rubare. Abbiamo fatto enormi sacrifici per liberare l'Egitto da Mubarak. Sono morte molte persone ed è stato versato molto sangue. Molte mogli sono rimaste vedove. Padri e figli sono stati uccisi, ma l'Egitto ora è di nuovo nostro. Ho qualcosa da dire a Tantawi. La tua violenza ha superato anche quella dei faraoni. Hai ammazzato gente innocente. Hai trascinato una ragazza in strada e l'hai denudata. Era come se fosse mia figlia, mia sorella. Non riesco né a bere né a mangiare quando vedo queste cose. Ecco perché ti dichiaro guerra con le parole che ho scritto sul mio cartello. Cosa avresti fatto, Tantawi, se al suo posto ci fosse stata tua figlia? Scendo in piazza per un solo motivo. Se è vero che è mia madre che mi ha partorito, prima di lei è stato l'Egitto a darmi alla luce. Mangio cibo egiziano, guardo il suo sole, respiro la sua aria, cammino per le sue strade, ammiro la sua natura. Vivo con i miei amici e la mia famiglia sulla sua terra. Questo è il motivo per cui dovremmo rispettare l'Egitto. Io dico, l'Egitto appartiene alla rivoluzione. E ci andiamo adesso ad ascoltare anche il secondo di questo audio documentario, lo ricordiamo, a firma di Marco Pasquini, Emiliano Sacchetti e Luca Mandrile. Il giorno dopo lo scoppio della rivoluzione in Tunisia abbiamo ospitato una squadra di calcio tunisina. Siamo entrati nello stadio con uno striscione che diceva: il popolo tunisino è libero, benvenuti. Non c'era l'atmosfera di una competizione sportiva, perché quel giorno nello stadio del Cairo si celebrava la liberazione del popolo tunisino. Questo è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Mi chiamo Khaled El Akkad, ho 26 anni. Sono un ultra egiziano ed ho partecipato alla rivoluzione. Lavoravo come impiegato di banca, ma sono stato licenziato proprio perché sono sceso in piazza. Sono stato arrestato, ho subito un processo militare e mi hanno giudicato colpevole. I media egiziani hanno sempre dipinto gli ultras come dei criminali. È un modo per evitare che la gente pensi a cose più serie. È un atteggiamento molto diffuso, sia nel mondo dei media che in quello del calcio. Ho Essere un ultras è un fatto culturale, è uno stile di vita. Nel nostro gruppo i giovani devono rispettare i più anziani e uno dei valori condivisi è che si decide a maggioranza. La prima volta che ho sentito parlare di libertà è stato tra gli ultras e so anche che nessuno si può permettere di trattarmi ingiustamente. Quando Mubarak si è dimesso, dormivo nella mia tenda. Un amico è venuto a svegliarmi per dirmi che Omar Suleiman era in TV e stava dando la notizia. Eravamo così felici che abbiamo pianto di gioia. Era ovvio che quando è scoppiata la rivoluzione noi ultras saremmo stati coinvolti. Ci hanno sempre trattato male negli stadi, proibendoci di esporre striscioni, ma noi non abbiamo paura della polizia. Siamo psicologicamente preparati ad affrontarla perché siamo abituati agli scontri. Non siamo dei violenti, la violenza è una reazione agli assalti delle truppe di sicurezza. Quando il nostro sangue viene versato, diventiamo più forti e più determinati. Ci stringiamo l'un l'altro. Siamo tutti egiziani, identici se non per la faccia e il carattere. Siamo diventati parte integrante della rivoluzione e ora non manifestiamo solo per una squadra di calcio, ma difendiamo un intero paese. Stiamo crescendo. Sono diverse le ragioni per cui è scoppiata la rivoluzione. Abbiamo vissuto troppo a lungo in una condizione di oppressione, senza libertà di opinione. Non ci sentivamo pienamente dei cittadini e neppure degli esseri umani. Il mio posto in piazza Tahrir era in prima linea insieme agli ultras e ai miei compagni. Noi siamo in grado di respingere qualsiasi tentativo di sgomberare la piazza. In piazza c'erano anche bambini, ragazze e anziani. E l'unico obiettivo di chiunque fosse in prima linea era quello di difendere la piazza. Al di là delle questioni politiche, la rivoluzione ci ha insegnato ad amare il nostro paese. Prima della rivoluzione odiavamo l'Egitto perché eravamo oppressi, soffrivamo l'ingiustizia e i soprusi, ma oggi provo un senso di appartenenza all'Egitto. Oggi mi sento parte di questo paese. Piazza Tahrir è la mia casa, il luogo dove ho vissuto e dove sono cresciuto. Dal 25 gennaio 2011 è l'unico posto dove mi sento veramente libero. Piazza Tahrir per noi è come un nuovo Egitto. Sono disposto a morirci in piazza, non l'abbandonerò mai. Questo è ciò che ho imparato dagli ultras. A volte mi sento depresso e questo senso di fallimento può durare giorni. Poi però la speranza torna a riempirmi. Se perdessi la speranza, non credo che potrei continuare ad essere parte di questa rivoluzione.